Il bilancio ufficiale delle vittime, almeno quello che dà Al Jazeera, è effettivamente 18, ma purtroppo le informazioni che ho raccolto ieri in Myanmar fanno salire questo numero ad almeno 30 dall'inizio del golpe del 1 febbraio, con un picco di almeno 22 solamente nella domenica di sangue. Cioè, fino a domenica scorsa l'esercito ha mantenuto una sorta di wait and see, aspettiamo e vediamo, però poi le cose hanno subito un'accelerazione violentissima ieri. Tra l'altro le fonti mi dicono che questo numero sarebbe per difetto, perché molta gente non si ricovera negli ospedali perché ha paura di essere arrestata. Quello che noi stiamo vedendo è che la decisione di colpire indiscriminatamente la folla non è pallottole vaganti, sono pallottole che prendono di mira la testa, il che ha anche un significato, come dire, magico rituale, nel senso che colpire la testa per i militari birmani significa colpire la testa del movimento, quindi c'è un ordine che sembra abbastanza preciso di colpire con proiettili veri, di colpire la testa, dove poi, diciamo, rimediare non è praticamente possibile. Diciamo, è una situazione che sembra indicare un punto di svolta, un punto di svolta grave, che però, a quanto si capisce, non ferma le proteste. E infatti tu su ISPI hai pubblicato un'analisi di questo movimento di disobbedienza civile, ricostruendone anche un po' la genesi. Nasce un po' da un'elite sanitaria, un'elite medica. Sì, nasce in realtà nel 2015, quando siamo ancora sotto, diciamo, una forma anche se più morbida di dittatura. I militari cercano di imporre nel Ministero della Sanità una quindicina di uomini in divisa. E lì c'è una ribellione da quella che in Myanmar è considerata un'elite nobile, quella dei medici, che è un po' appunto considerata nella gerarchia dell'elite quella più in alto, motivo per cui è anche particolarmente odiata dai militari. E quel movimento lì, che aveva ovviamente creato una rete, è quello su cui, diciamo, si è basata questa nuova protesta, perché quella rete si è riattivata immediatamente con la disobbedienza civile, ma nello stesso tempo garantendo l'emergenza, quindi con un grado di coscienza civile molto elevato. Quello che io non ho scritto colpevolmente in quell'articolo per ISPI è che c'è, diciamo, una componente giovanile molto forte che si identifica in una cosa che viene chiamata generazione Z e che è, diciamo, in questo momento una delle fonti. Non possiamo parlare di una leadership precisa, possiamo parlare di situazioni diverse ma organizzate, che muovono da movimenti anche spontanei ma che si sono strutturate e che fa pensare a realtà comunque strutturate in maniera tale da immaginarsi che qualcosa potesse andare storto. Quindi più il fatto che, diciamo, la Lega Nazionale per la Democrazia ha sedi in tutte le città birmane, anche le più piccole, più il fatto che esiste una sorta di parlamento clandestino, quello che è stato eletto nel elezioni dell'8 di novembre, quindi molte realtà, forse non con un solo leader, che rimane comunque Aung San Suu Kyi, ma che diciamo alla fine convergono sull'obiettivo generale, quello di un movimento di protesta che blocca il paese, che non è violento, questo è un dato importante per non cadere nella trappola di dare giustificazioni alla polizia e all'esercito, e che ha l'obiettivo di rovesciare il colpo di Stato. Ci sono anche altri due elementi che si evincono allargando un po' lo sguardo, ovvero le proteste che non avvengono solo in ex Birmania, ma in tutto il sud-est asiatico, e un'attitudine alle nuove tecnologie per comunicare e organizzarsi. Esatto, nuove tecnologie, quindi Facebook, Twitter, fondamentali per poter creare questa rete, poi le immagini che girano, i filmati, il collegamento internazionale con i vicini, in particolare Taiwan, Thailandia, Hong Kong, quello che viene chiamato il movimento del tè al latte, che ha questo simbolo delle tre dita alzate in segno di lotta e di vittoria. Aggiungo anche un altro elemento: il lavoro che è stato fatto in questi anni da organizzazioni non governative, organizzazioni di tutela per i diritti umani che sono presenti in Myanmar, che ovviamente dopo la vittoria della Lega per la Democrazia hanno avuto più spazio per lavorare lavorare, e queste hanno fatto un lavoro importante che è, come dire, anche un lavoro di training, dare la possibilità alla gente di andare alle università, alle scuole, di avere un lavoro retribuito. È sicuramente una parte marginale in tutto questo, ma è per dire che, insomma, per una volta tanto l'Occidente non ha avuto un ruolo solo negativo, quello di fare affari con chiunque, ma c'è stata anche una spinta dal basso, che in questo momento sostiene il movimento e ne fa eco nei paesi europei.